Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo dell'amore, anzi del modo, dei modi in cui l'amore si esprime nella letteratura e soprattutto in filosofia. E lo facciamo sulla scorta di un libro di Maria Bettettini, che è docente di estetica all'Università Yulm di Milano, che si intitola appunto Quattro modi dell'amore, pubblicato dalla Terza, 146 pagine, 14 euro. Le quattro categorie sono l'amicizia, la passione, l'amore estremo e i falsi amori. Queste infatti sono le categorie in cui si manifesta questo eterno demone, come l'autrice definisce l'amore. E per fare la sua indagine, la Bettettini illustra questi concetti, queste quattro categorie, con dei riferimenti letterari. Per esempio, per l'amicizia si parte da Euríalo e Niso, oppure si parla di Platone e della civiltà greca, e così per tutte le altre voci. Ma sentiamo dall'autrice le ragioni della sua scelta e come illustra lo svolgimento di questi quattro modi dell'amore. Buongiorno a Maria Bettettini. Buongiorno, buongiorno. Allora, professoressa Bettettini, questa sua riflessione sull'amore è più una riflessione letteraria o filosofica? Ah, che bella domanda. Sai che il libro doveva intitolarsi Storia filosofica dell'amore, o Amore una storia filosofica, e poi in verità scrivendolo mi sono accorta che non potevo fare a meno della letteratura per parlare dell'amore, così come per parlare di tutte le cose umane, perché in fondo la filosofia si occupa dell'uomo ogni tanto, la letteratura sempre, e quindi sono dovuta correre a chiedere aiuto alla letteratura. E che cosa ne ha ricavato? C'è una linea che unisce questi quattro capitoli dell'amore, questi quattro modi di amare che lei descrive nel suo libro? Sì, innanzitutto vorrei chiarire che non sono gli unici quattro modi dell'amore, ne sono venuti fuori quattro che ne compendiano naturalmente molti altri, qualunque altra suddivisione è la benvenuta, quattro è un numero corretto, insomma, che non è neanche tanto grande, e la continuità è quella che propongo proprio nella prima pagina, cioè l'idea che l'amore sia il demone che scrive Platone nel Simposio e che come tale si impossessi delle persone, ma un demone buono, un demone benefico che riempie la vita di colui che ne è vittima, portandolo a desiderarne sempre di più, a non essere mai soddisfatto. Ecco, la caratteristica dell'amore è proprio quella di non essere mai abbastanza, sia soprattutto per quello che riguarda il sentirsi amato, quindi la passività dell'amore. Non basta mai il sentirsi amato, e questo porta a aspetti bellissimi della vita, sia di società che familiare, che di amore, che di amicizia, ma può portare anche naturalmente a delle patologie. Ecco, il suo libro inizia con un capitolo dedicato all'amicizia e lei sottolinea alcuni passi di molti filosofi e scrittori che enfatizzano l'aspetto disinteressato che c'è nell'amicizia. Sì, infatti. Io credo che l'amicizia sia forse il più libero degli amori, delle forme d'amore, perché in fondo tutte le altre forme d'amore sono basate su legami di sangue o su contratti o su promesse, che poi è molto faticoso e anche socialmente disturbante spezzare, ma anche personalmente doloroso spezzare. Un'amicizia invece si sceglie liberamente e si risceglie liberamente, anche perché si sa che comunque può essere sciolta senza dei drammi, se è vissuta con libertà. Per cui è in effetti il rapporto d'amore più che nasce nella maniera più libera e prosegue nella maniera più libera. Quando un amico dà la vita, come si vede in tanti casi, come anche si riecheggia parole famose, dà la vita per un suo amico, allora è il massimo, credo, dell'amore disinteressato, quindi del vero puro amore. E invece poi c'è la passione, della quale lei parla, introducendo questo tema con Paolo e Francesca. Sì. La passione è una forma appunto di passività, come dice la parola, che deriva dal passos greco e che è stata sempre vista dal mondo filosofico come qualcosa da tenere sotto controllo, perché naturalmente la si è vista inquinare la ragione, la si è sentita come un elemento negativo che inquinava la ragione. Tranne qualche raro caso di pensatore che l'ha vista come la portatrice di vita, quindi ma che poi non ha vissuto in questo modo, no? Pensavo a Nietzsche, per esempio, che promuoveva lo scatenarsi dionisiaco, e se c'è una vita poco dionisiaca sicuramente quella di Nietzsche, e comunque oppure casi di rari casi di pensatori che hanno cercato di trovare un equilibrio, di dire, ecco, tutti sono d'accordo sul fatto che la passione dell'ira sia positiva, perché esiste una giusta ira. È più difficile trovare invece un accordo tra i pensatori, ma invece si trova di più nella letteratura sulla bellezza dell'essere presi dalla passione d'amore. Ecco, nella riflessione filosofica contemporanea, quanto è attuale questa riflessione sull'amore? Ma mi pare moltissimo, perché oltre al fatto che, oltre al mio, sono usciti quest'anno molti libri su questo tema e che il prossimo Festival di Modena si intitolerà nel 2013 Amare, e questi sono dei segni, no? Anche che sono abbastanza indicativi, si sente con molta forza questa necessità di un'educazione dei sentimenti, di cui si è cominciato a parlare qualche anno fa, sporadicamente, un po' da parte di filosofi, un po' da parte di psicologi, ma che in fondo ancora non si è capito bene come si debba fare. Diciamo, si ha la percezione che i ragazzi, ma anche gli adulti, siano magari educati culturalmente, ma molto maleducati nel campo della gestione dei propri sentimenti, che vengono o nascosti e repressi o esaltati e manifestati in maniera inopportuna e che possono rovinare delle vite. Quindi c'è una tendenza a cercare questa educazione dei sentimenti, è il più grande, non sentimento, ma il più grande, come lo possiamo definire, l'amore, il più grande demone, ecco, che raccoglie molti sentimenti, è naturalmente l'amore. Un demone sempre in funzione, insomma. Sì. Grazie Maria Bettettini, buona domenica. Grazie anche a lei. A proposito di amore, un libro sull'amore coniugale, un libro decisamente controcorrente, è quello di Costanza Miriano, che è una giornalista cattolica, madre di 4 figli. Il suo libro si intitola Sposala e muori per lei, uomini veri per donne senza paura. È pubblicato da Sonzogno, 206 pagine, 15 euro. Autrice, dicevo, controcorrente, e infatti il libro precedente della Miriano si intitolava Sposati e sii sottomessa. Si parte da un tema molto attuale nei nostri giorni, la crisi ormai devastante, scrive, delle identità maschile e femminile, la carenza di veri uomini e di vere donne e quindi di matrimoni che funzionino, che non è esattamente, aggiunge, come dire, la crisi post anni 80 della moquette, delle pennette alla vodka e delle polo color salmone. L'unione stabile tra un uomo e una donna è necessaria per trasmettere la vita della specie in condizioni minime di serenità. La donna, quindi, secondo l'autrice, deve ridefinire il suo ruolo. Come avete sentito anche dalle righe che vi ho citato, l'autrice usa anche un tono ironico per affrontare, da un punto di vista decisamente cattolico, l'esigenza di trovare il modo di stare insieme, e affronta quindi vari aspetti come l'amore nella vita quotidiana, l'autorevolezza paterna, la necessità di avere verso di lui un pregiudizio positivo, che cosa sia davvero la virilità. E qui, per esempio, l'autrice scrive che è abbastanza facile trovare un maschio pronto a morire in guerra per un ideale, per la gloria, per la sua squadra anche al limite, ma è difficilissimo che si innamori dell'idea di morire per la famiglia, per sua moglie, per i figli, per una quotidianità apparentemente mediocre, azione che sarebbe invece quanto di più eroico si possa immaginare. E poi altri temi affrontati, l'educazione, il matrimonio e naturalmente l'amore. E a questo punto il confettino. Concludo con un libro che in qualche modo riprende i temi affrontati da Costanza Miriano. Si intitola Genitori felici, di Letizia Bourget, con le illustrazioni di Emmanuelle Huddard. È pubblicato da Logos, 17 euro, tradotto da Fabio Regattina, ed è la storia, molto ben illustrata, di due principi che affrontano le varie difficoltà che ci possono essere in un legame continuo, in un matrimonio, e che si conclude proprio come la domanda che appunto piacerebbe alla Miriano: come avranno fatto a restare uniti malgrado tutte queste prove? Ci saranno voluti, scrive l'autrice, pozzi di saggezza e montagne d'amore. E a questo punto le informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, proseguiamo su queste riflessioni sull'amore e l'amicizia con un romanzo. Una grande testimonianza di amicizia è la storia raccontata nel libro di Rachel Joyce, L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, pubblicato da Spelling e Kupfer, 314 pagine, 17,90 euro, tradotto da Maurizio Bartocci e Chiara Brovelli. L'autrice è una sceneggiatrice della BBC che ha conquistato enorme successo con questo che è il suo primo romanzo, ed è la storia di un tranquillo tranquillo pensionato che vive una vita decisamente grigia, lietata soltanto dalle cure del suo giardino, che un giorno riceve una lettera da una vecchia collega di lavoro che lo informa di essere alla vigilia della morte perché è colpita da un tumore. Il protagonista decide allora di scrivere un biglietto un po' impacciato per la sua amica per cercare di consolarla e quindi va alla posta per imbucarlo, ma camminando decide di allungare il suo percorso e quindi di raggiungere la posta centrale e di là di posta in posta deciderà di viaggiare 87 giorni per raggiungere fisicamente l'amica malata indossando le scarpe da vela che aveva quando era uscito di casa. E percorrerà quasi 1000 chilometri. C'è una mappa nel libro che descrive il suo percorso, che parte dal sud dell'Inghilterra fino a raggiungere la Scozia. Lo fa perché è convinto che questa impresa riuscirà a mantenere in vita l'amica. Io camminerò e lei vivrà, la salverò, pensa il protagonista facendo il suo viaggio. Naturalmente questo viaggio sarà l'occasione per riacquistare una personalità, per ripensare la propria vita, per fare tante scoperte, per riflettere sul proprio matrimonio ormai arrugginito, ma del quale Harold, questo è il nome del protagonista, con la moglie riscoprirà il significato proprio alla fine del suo viaggio, proprio quando i due si ricongiungono davanti all'amica che purtroppo è scomparsa. E di questa riscoperta ne è testimonianza le righe che adesso vi propongo e che concludono il libro. Sono le righe nelle quali la moglie Maureen ha raggiunto appunto il marito che a sua volta ha concluso la sua impresa. «Oh, Mo», disse lui, piangendo piano. Maureen lo strinse a sé finché il dolore passò. Harold era alto, rigido, e suo tesoro. Con le labbra cercò il suo viso e baciò le guance bagnate di lacrime salate. «Ti sei alzato e hai fatto qualcosa, e se non è un piccolo miracolo il fatto che tu abbia cercato una strada quando non eri nemmeno sicuro di arrivare alla meta, allora non so che cosa si possa definire tale». Le tremava la bocca. Gli prese il viso tra le mani. Erano così vicini adesso che i suoi lineamenti erano indistinti e tutto quello che riusciva a vedere era il sentimento che la legava a lui. «Ti amo, Harold Fry», sussurrò. «Ecco che cosa sei riuscito a fare». Un altro viaggio giunto ormai alla terza tappa è quello della serie Le Nuove Meraviglie di Milano, pubblicato da Guerini Associati e curata da Luca Doninelli. Questo volume si intitola Vacanze Milane, città della cura, cura della città, 206 pagine, 14,50 €. Questi volumi, come ricorderanno gli ascoltatori ai quali abbiamo parlato dei precedenti volumi, sono raccolte di racconti inediti di esordienti che hanno partecipato alla scuola di scrittura O'Connor e al corso di etnografia narrativa presso la Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Doninelli, nell'introdurre il volume, spiega che ogni città è l'espressione di una certa idea dell'uomo nata non dalla filosofia, non dalla riflessione teorica, ma da un pulviscolo di circostanze attraverso le quali si esprime un pensiero in azione, non necessariamente, anzi quasi mai riflessivo, ma comunque pensiero. E c'è in questo un richiamo al libro precedente perché il tema di questa tappa è quello del rapporto salute-malattia-nascita-morte ed è nato in Doninelli questa scelta proprio dalla scomparsa del suo amico più caro. E quindi abbiamo qui raccolti sue varie esperienze legate al tema della cura, della salute, su angoli stravaganti di Milano, su forme di disagio urbano. E il titolo del volume è tratto dal titolo del primo racconto, appunto Vacanze Milane, di Franco Molon, che anticipa tutti i temi del libro, offrendoci uno spaccato insolito e straordinario di Milano, come dimostrano queste righe di Paolo Covassi tratte da un altro racconto che testimoniano del cambiamento demografico che è in corso nella città. In questi anni poi ho visto cambiare molte cose. Quando ero giovane i bimbi che nascevano erano tanti. Così i genitori si lamentavano che il loro piccolo era in terza o quarta fila. Allora le infermiere talvolta prendevano in mano questi fagotti di stracci e si avvicinavano al vetro. Anche i genitori erano giovani e tanti fratelli e sorelle venivano a vedere il nuovo arrivato. Uno sguardo veloce all'intruso per poi correre in corridoio a giocare. Piano piano i bambini sono diventati sempre meno. Ultimamente anche i genitori non sono più tanto giovani. A volte senti conversazioni del tipo «È il suo primo nipotino? Veramente quello è mio figlio». Gelo. e i genitori sono sempre più soli, senza altri figli, con pochi parenti, pochi amici. Ma un'altra cosa è cambiata. Ricordo quando sono arrivati i primi negretti, guardati da tutti con un misto di sorprese e curiosità. Ora ai Giovanni e ai Filippo si alternano nomi difficili, che arrivano un po' da tutto il mondo, ma dentro le loro culle e negli occhi di chi li guarda non c'è differenza, diffidenza, ostacoli. Infine, una periferia italiana di una ricca città dove scorrono le 17 ore di Viaggio nella notte di Massimiliano Santarossa, pubblicato da H, 140 pagine, 14 euro. L'autore è stato falegname, operaio e poi ha scoperto la scrittura, ha già diversi titoli al suo attivo, e qui ci dà la descrizione delle ultime ore di un giovane segnato dal destino e dal rifiuto di accettare la vita che gli si prospetta e che qui viene presentata nel primo appuntamento di lavoro che il protagonista aveva avuto. La prima volta che misi piede nello stomaco di un capannone avevo 14 anni. A 14 anni credevo ancora a quella cosa che chiamano felicità. Poi, non più. A quel tempo avevo le mani dolci. Guardavo la pelle delle dita e dei palmi ed era tutta rosa, tutta tenera, senza tagli. Erano mani di bambino cresciuto. Mani magre e belle. Furono le prime ad andare distrutte. Afferrai la maniglia colma di ruggine. Tirai forte. Il portone, urlando, si aprì e feci i miei primi passi timorosi nel suo ventre freddo. Venni accolto da quello che sarebbe stato il mio primo padrone. Il creatore della prigione, che nella prigione viveva da anni. Un padrone schiavista resosi schiavo lui stesso. Per mano sua. Per sogno suo. Per colpa sua. Mi guardò per un istante e poi parlò. «Ragazzo, qui mi devi lavorare 10 ore al giorno e senza dire niente, senza mai protestare, senza ammalarti. Se dici, se protesti, se ti ammali, te ne vai. 8 ore le trovi pagate in busta paga, 2 ore me le lavori gratis, ogni giorno, 2 ore precise. O fai così, oppure assumo uno dei negri in fila là fuori». E quindi il libro assume il carattere di una descrizione drammatica del corrompimento anche fisico di una comunità che lascerà solo, forse troppo solo, il protagonista. Prima di salutarci vi ricordo che è in corso a Milano la mostra dedicata a Picasso, organizzato da 24 Ore Cultura, la società che fa parte del gruppo. Prima di salutarci ricordo agli ascoltatori che è in corso a Milano a Palazzo Reale la mostra di Picasso, organizzata da 24 Ore Cultura, la società che fa parte del gruppo, che pubblica anche questa radio. In questa occasione ricordo che agli ascoltatori di questa trasmissione sono riservati 10 biglietti per visitare in una serata speciale la mostra il 24 ottobre alle 20:30. Basta rispondere alla domanda che cosa vi aspettate dalla mostra di Picasso con un SMS al numero 349-238-6666. Sceglieremo 2 coppie tra gli ascoltatori che risponderanno oggi e altre 3 coppie domenica prossima. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento a settimana prossima.